ritengo che possano essere utili per stimolare un dibattito sia con i relatori e con gli interventi iscritti, sia anche tra voi che partecipate al forum. Quindi che cosa possiamo dire appunto in una sintesi molto, molto ampia? Io qui ho preparato degli appunti, qualche volta posso leggere, altre volte parlerò a braccio. Ecco, per esempio, leggo questo che ho scritto. Secondo le visioni correnti, la mafia dagli anni 70 ad oggi avrebbe avuto il seguente percorso: il passaggio dalla mafia rurale a quella imprenditoriale, imprenditrice, la guerra di mafia dei primi anni 80 e l'eliminazione di uomini delle istituzioni, con il trionfo dei cosiddetti corleonesi, le stragi dei primi anni 90 e negli ultimi anni la cosiddetta mafia sommersa. A livello mediatico ha imperversato questa immagine della piovra come una sorta di super mafia planetaria. In definitiva, quello su cui si è posto l'accento, soprattutto a livello giornalistico, ma anche diciamo a livello di studio, è la mafia considerata come emergenza delittuosa. Quindi le guerre di mafia, l'uccisione dei magistrati, dei politici, eccetera. Cioè fabbrica di omicidi e in particolare dei cosiddetti delitti eccellenti e quindi come antistato. Sono queste le idee di mafia più affermate e ho detto più volte che si tratta di stereotipi, cioè di idee diffuse ma prive di scientificità. Mentre ho considerato paradigmi, cioè idee che hanno una certa base scientifica, le idee di mafia come associazione a delinquere tipica, introdotta con legge antimafia del 13 settembre 82, con circa 150 anni di ritardo rispetto alla realtà, e come impresa. Paradigmi che però colgono solo aspetti del fenomeno mafioso, quello dell'associazionismo criminale e quello economico in parte, che è più complesso. In quello che ho chiamato paradigma della complessità ho usato la seguente definizione: mafia è un insieme di gruppi criminali che agiscono all'interno di un sistema di rapporti, svolgono attività illegali e legali al fine di arricchirsi e acquisire posizioni di potere, si avvalgono di un codice culturale e godono di un certo consenso sociale. Il sistema di rapporti dà vita a un blocco sociale transclassista, egemonizzato da quella che da più di 40 anni chiamo borghesia mafiosa, frutto dell'interazione fra società come impresa. L'assassino di Peppino il 9 maggio del 78 cadeva in un periodo in cui più di uno negava la stessa esistenza della mafia. Il libro più diffuso negli anni 70, infatti, è un libro intitolato Mafia, di un antropologo tedesco che si chiama Enneres, che l'editore La Terza ha continuato a replicare, in cui diceva che la mafia è una subcultura, cioè un modello comportamentale condiviso storicamente da tutti i siciliani, soprattutto quelli della provincia, delle province della Sicilia occidentale, come impresa. L'assassino di Peppino il 9 maggio del 78 cadeva in un periodo in cui più di uno negava la stessa esistenza della mafia. Il libro più diffuso negli anni 70, infatti, è un libro intitolato Mafia, di un antropologo tedesco che si chiama Enneres, che l'editore La Terza ha continuato a replicare, in cui diceva che la mafia è una subcultura, cioè un modello comportamentale condiviso storicamente da tutti i siciliani, soprattutto quelli della provincia, delle province della Sicilia. Nel 76, quindi poco prima dell'assassinio di Peppino, la Commissione parlamentare antimafia aveva concluso i suoi lavori con una relazione di maggioranza e due di minoranza, uno del PC e uno del Movimento Sociale. Il dibattito all'interno della Commissione, quindi domina in larga parte le idee di quello studioso di cui parlavo, NRS, la mafia ormai si era trasformata in gangsterismo urbano e soprattutto i commissari di maggioranza sostenevano che ci fosse questa mentalità diffusa ma che non c'era l'organizzazione. A parlare invece dell'organizzazione, a dire che la mafia si era trasformata pur mantenendo alcuni aspetti di continuità, inserendosi nella speculazione edilizia, inserendosi nella regione, eccetera, era soltanto la minoranza, in particolare Licausi, che era il vecchio dirigente del Partito Comunista, La Torre, che era un po' più giovane di lui, Terranova, il magistrato che faceva parte della commissione parlamentare antimafia come indipendente del Partito Comunista. Loro dicevano no, è mafia perché è un fenomeno più complesso, il gangsterismo urbano, che non avrebbe radici. Invece la mafia ha radici, pratica l'estorsione come vecchia pratica, e poi si è inserito nei nuovi traffici, si è inserito nella speculazione edilizia, utilizza moltissimo il credito, utilizza molto i fondi regionali. La commissione parlamentare antimafia esitò appunto queste relazioni e poi pubblicò una massa monumentale di documenti utilissimi per la ricostruzione storica occidentale. Quanto riguarda poi il quadro attuale, si parla di mafie, c'è questo mio libro Dalla mafia alle mafie che cerca di dare una sintesi delle ricerche sull'argomento di sociologi, storici, economisti, eccetera. E si parla di crimine transnazionale, cioè ci sarebbe una sorta di, diciamo, partendo dalla legge antimafia nazionale dell'82 e partendo anche da una legge più antica degli Stati Uniti, l'Organized Crime Control Act degli anni 80, si cercherebbe a livello giuridico e quindi poi a livello giudiziario di trasferire queste disposizioni sulle criminalità che intersecano vari paesi, varie nazionalità. Dico noi, centro e altre associazioni, siccome nel dicembre del 2000 a Palermo c'è stato il convegno internazionale delle Nazioni Unite per la firma della convenzione sul crimine transnazionale, in cui appunto si dava la definizione di crimine transnazionale, si proponeva l'estensione a livello internazionale delle disposizioni della legge antimafia italiana, quindi anche con il sequestro e la confisca dei beni, anche con norme sul riciclaggio del denaro sporco. Abbiamo fatto un seminario che era intitolato I crimini della globalizzazione, perché riteniamo che all'interno dei processi di globalizzazione ci sono degli aspetti che ci limitiamo a definire criminogeni, che sono essenzialmente due. Uno è la faccenda che la globalizzazione è un supermercato per noi occidentali, consumismo eccetera, è una grande fabbrica di esclusione per l'80% della popolazione mondiale, il che significa che l'80% della popolazione mondiale o si attrezza con altre attività fuori mercato, quindi in pratica con attività criminali e illegali, oppure è totalmente tagliata fuori. Per cui non c'è la piovra universale, che è una sciocchezza, c'è il proliferare di gruppi criminali di tipo mafioso, cioè di tipo complesso, la definizione che davo io all'inizio, favoriti dal fatto che per gran parte della popolazione mondiale l'unica attività o la risorsa più conveniente è l'attività illegale. È una situazione di, come vi dicevo, a livello politico il quadro era quello, è di antimafia civile, sociale, minoritaria. Questo è il dato da cui partire. Quindi è importante tutto quello che accade, però è ancora un'attività minoritaria. Quindi le proposte che possiamo fare sono, se ne parlava anche ieri all'interno del forum sulla informazione, occorrerebbe strumenti di comunicazione informativi più significativi, la ricerca bisognerebbe che avesse un fiato molto più ampio, la legislazione andrebbe adeguata, e c'è quel problema di cui parlavo, mafia politica, a mio avviso si deve risolvere a livello legislativo. Per quanto riguarda l'accumulazione, bisogna affrontare il problema fondamentale dei proibizionismi, perché anche nelle stime di cui vi parlavo, poi è la droga, soprattutto nelle stime internazionali, la droga, sono le droghe il principale, e poi anche l'immigrazione clandestina sta diventando un aspetto fondamentale, e anche lì c'è il proibizionismo. L'immigrazione è clandestina perché è proibito il libero movimento delle persone. Sul riciclaggio c'è una legislazione assolutamente inadeguata, le opere pubbliche ponte e alle porte. Quindi in ogni caso, per rispondere ai bisogni soprattutto degli strati popolari, si pone il problema, ma che è enorme all'interno dei processi di globalizzazione, di rafforzamento dell'economia legale. Cioè il problema è se noi riusciamo ad uscire da una dimensione minoritaria cercando di costruire un blocco alternativo in cui si può parlare di legalità democratica, soddisfacimento dei bisogni, ma soprattutto si tratterebbe, per quanto riguarda le forze che si propongono di essere alternative, di ricostruire un'identità. Cioè, per esempio, se oggi non si organizzano i disoccupati, non si organizzano i sindacati, non si organizzano gli ultraflessibili, non si organizzano i marginali, io credo che il sindacato abbia esaurito la sua fase storica, che è collegata, 800-900, all'organizzazione dei lavoratori occupati stabili. Però questo è un problema enorme di riconversione, appunto, dell'organizzazione sindacale. La disfatta elettorale può significare o significa la fine di un'epoca, per cui è assolutamente importante rifondare l'identità, che poi era il problema che si poneva anche Peppino. Radio Out non significa né o né fuori, Radio Out significa autonomia, cioè Peppino si è sempre collegato con tutte le vicende antagoniste che cercavano appunto di costruire nuovi blocchi sociali, nuova identità complessiva. Darei la parola a Franca in Bergamo. Buongiorno a tutti, faccio subito una premessa. Io notoriamente non sono molto obbediente come persona, quindi in parte, diciamo, mi allontanerò, ma solo in parte, dalla relazione, dal tema assegnatomi, ma soltanto in parte, e ve lo dico subito anche per non spaventarvi, perché non ho nessuna intenzione di farvi una relazione tecnica, perché questo non è un convegno di studiosi del diritto, per fortuna, perché penso che invece questo genere di incontri servano a parlare della giustizia in chiave politica. Quindi vi farò un discorso politico, fra virgolette, come politico può farlo un magistrato, perché non c'è nulla, come dico sempre negli incontri che faccio, di più politico dell'attività giudiziaria. In realtà credo che l'argomento principale da affrontare in questo momento sia quello a cui accennava Umberto, è quello del rapporto esistente fra la responsabilità politica e la responsabilità giudiziaria, e di che cosa in realtà questo Paese oggi chiede all'attività della magistratura, di leggi, una legislazione anche processuale apparentemente più efficace, figlia dell'emergenza. E siamo tornati immediatamente indietro appena ci siamo accorti però che lo strumento, ad esempio, dei collaboratori di giustizia poteva portare lontano, perché se al collaboratore di giustizia non chiedi soltanto notizie sul padrino di paese, ma cominci ad alzare il livello e cominci a chiedergli chi sono gli interlocutori politici, e soprattutto se il collaboratore di giustizia non è il gregario ma è il capo mafia, allora a quel punto si è compreso fino in fondo in questo paese quanto potesse essere pericolosa la delega alla magistratura, e si è tornati rapidamente indietro col concorso di tutti. Quando abbiamo proposto che nei confronti della criminalità organizzata venisse istituito il doppio binario processuale, cioè la possibilità che il processo potesse essere fatto in maniera diversa, più efficiente, sempre nel massimo rispetto delle garanzie, ci si è detti che no, non era possibile. Dobbiamo probabilmente cominciare a ragionare in termini di garanzie effettive, e dobbiamo soprattutto, perdonatemi i voli pindarici, ma è necessario farlo a volte quando si va su discorsi di concreti, dobbiamo riflettere su che cosa veramente vogliamo assicurare come garanzia al nostro sistema penale. Perché se apro il giornale di oggi leggo che probabilmente verranno varate nuove norme molto ma molto meno garantiste nei confronti di chi commette un furto o una rapina in villa, o nei confronti dei rom, o nei confronti dei rumeni, o nei confronti degli albanesi. Allora il doppio binario esiste già, solo che io lo applico al contrario. Io sono ferocissima come rappresentante della magistratura, che quelli sono gli strumenti nei confronti di coloro che commettono reati bagatellari, ma che vengono vissuti, percepiti dall'opinione pubblica come un attacco alla sicurezza. Che deriva dalla pulviscolarità. Cioè la camorra è in guerra permanente, e questo è un elemento di debolezza, perché storicamente e anche adesso non è mai esistita se non in un periodo storico in cui c'era la contrapposizione fra due coalizioni, non è mai esistita una struttura organizzativa del tipo di quella che aveva e ha Cosa Nostra, cioè sono una serie di gruppi, quindi c'è una sorta di ribollio magmatico in cui l'espressione fondamentale, certo, controllano la droga, controllano una serie di attività, controllano esperienze che è molto vasto, quindi il ruolo degli enti locali e poi gli appalti, l'antiracket, questa situazione di frontiera che lui vive da parecchio tempo anche con grandi rischi personali. Rosario. Beh, buongiorno a tutti. Onestamente, dopo... Onestamente, dopo l'ampio intervento serio di Umberto e tutte le questioni proprio imbellenti, importanti che ha sollevato Franca Bergamo, mi viene molto semplice immediatamente agganciarmi a questo dibattito. Io vi cito sempre un esempio, perché voglio capire e far capire sempre da dove sono partito e poi qual è la situazione reale, proprio per evitare poi di caricare di retorica non solo il mio impegno, ma l'impegno poi concreto che si può fare all'interno delle istituzioni. Io nel 2003, l'11 marzo del 2003, quando venni eletto, cito sempre questo episodio, anche perché poi di fatti gravi, eccetera, molto più gravi, ne sono successi tanti e ne continuano a succedere, per cui non è questa la questione che voglio sollevare, ma voglio il significato profondamente politico che questa vicenda ha. Io il mio avvocato viene chiamato da un tecnico che lavora dentro il comune. Da un tecnico che lavora dentro il comune, che è consigliere provinciale dell'Udeur, quindi è partito allora alleato col centro-sinistra, quando io ero candidato in realtà non erano alleati con me perché erano con l'UDC, stavano bene alla larga, però questo tecnico, che è anche un politico, chiama il mio avvocato e gli dice che vuole fare questo sindaco, vuole fare la lotta alla mafia, guarda che in una settimana ce lo puliamo, ce lo puliziamo. E mentre io vado a fare la denuncia l'indomani mattina alla polizia, la sera dopo, quando io faccio il mio comizio, alle mie spalle c'è questo signore con il figlio, tutti e due vestiti di nero, che assistono al comizio e poi subito dopo il comizio, tanto che io durante il comizio ho dovuto dire questo palco mi sembra un pochettino affollato durante il comizio di ringraziamento. Ci sono tante persone che durante la campagna elettorale stavano fuori, fra l'altro io feci la prima volta che feci la mia prima campagna elettorale, la feci veramente nella ostilità dei partiti, con la ostilità dei partiti, e la feci veramente con un gruppo di ragazzi e di ragazze, e i partiti si vergognavano persino di me, e non solo, ma i partiti persino avevano accettato la mia candidatura come unitaria solo perché il centro-sinistra veniva considerato perdente. E poi io dopo improvvisamente caccio questi signori e da quel giorno comincia una pantomima terribile, terrificante, senza veramente alcun senso politico, almeno per il tipo di valori che noi abbiamo, che dice questo sindaco che vuole avere cosa, che si rifiuta di parlare con i partiti. No, io mi rifiutavo di parlare con i mafiosi, altro che con i partiti. E un sindaco autoritario, fa il despota, fa il commissario, fa il prefetto. È un assedio continuo in cui per 4 anni, in cui vi, Franca di Bergamo vi ha accennato cosa è successo, poi una parte di cose che sono successe in questi 4 anni, ma io adesso ve ne voglio parlare anche più, anche con i punti critici che ci sono dentro questa esperienza. Io per 4 anni mi sento ripetere dai miei alleati, non c'è circostanza in cui non me lo ripetano, che grazie, che per colpa di questa lotta che facevo contro la mafia, così, di questa lotta che fai contro la mafia, avrei straperso le elezioni. Io gli ho detto che non me ne fregava assolutamente nulla, così come non me ne fregata la prima volta, non me ne fregava la seconda. Risultato poi invece che i cittadini di Gela al primo turno l'anno scorso mi hanno dato il 65%. E un 25% di elettori non ha votato a nessun partito, sicuramente cosa che a me non piace, ve lo dico con estrema sincerità, io che penso alla politica come elaborazione democratica, come costruzione di movimenti, eccetera, eccetera, un po' mi angoscia persino questo dato di consenso individuale, perché ritengo che la politica vada costruita in modo ampio e diffuso, però questo dovrebbe aprire gli allarmi, cioè se noi pensiamo di poter vincere la nostra poter vincere la nostra battaglia su un terreno di posizioni nette e chiare, oppure possiamo pensare di vincere su altri terreni. Ma andiamo alla questione degli enti locali. Molto spesso si sente dire che i comuni poi alla fine non possono fare nulla. La lotta alla mafia non è una lotta come tutte le altre cose, è la lotta contro il sistema di potere che ininterrottamente domina la Sicilia dall'unità d'Italia a oggi, senza alcuna discontinuità in nessuna fase della storia di questa regione, qualsiasi governo si sia su Tutera, Niscemi, Riesi, la presidenza della provincia di Caltanissetta, ma nessuno di questi enti ha mai inserito queste clausole nei bandi di gara e quindi sono rimaste. Però l'importante è firmare i protocolli, una bella conferenza stampa, abbiamo firmato, stiamo facendo il protocollo, poi facciamo la manifestazione per Falcone e Borsellino in cui si depone, oppure dedichiamo un'aula di un consiglio comunale, eccetera eccetera. Però poi alla fine invece, quando andiamo a parlare del sistema di controllo degli appalti, allora lì diventa più difficile fare la lotta alla mafia. Quali sono elementi fondanti di questo ragionamento? Alcune clausole semplici che andrebbero perfezionate sicuramente, anche perché poi è chiaro che noi ci imbattiamo lì sul problema legislativo che riguarda la richiesta preventiva antimafia per tutte le imprese che partecipano a tutte le gare, al di là dell'importo, teorici della lotta contro il pizzo. 150 imprenditori che sono stati alla polizia, ai carabinieri, dal magistrato a dire: senta, questo mi chiede il pizzo. Hanno fatto arrestare centinaia di estortori. Noi abbiamo già partecipato giusto ai primi processi contro la mafia e contro gli estortori, e abbiamo avuto come parte civile del comune, già abbiamo indennizi per circa 1 milione di euro che ci devono dare i mafiosi, che noi daremo come contributi ai poveri. Ecco, così il capitale che è stato rubato ai poveri ritorna ai poveri. Finito. Però c'è una cosa che non riesco a risolvere, ve lo dico con molta sincerità, e questo dimostra anche poi come il sistema, perché anche tutto il sistema oggi legislativo in qualche modo, e tutte le questioni che sono affrontate in qualche modo, hanno messo in luce gli appalti. Ma il sacco di Palermo fatto da Ciancimino, sì, lo fecero gli intestatari di moltissime licenze, di gran parte delle licenze, furono due persone. Uno faceva il carbonaro, cioè non nel senso risorgimentale, il venditore di carbone, e l'altro quelli che mi piacciono di più sono questi due. E l'altro era disoccupato. Questi due hanno avuto alla fine, dopo aver costruito migliaia di palazzi, hanno avuto come premio una casa, il Carbonaro, e la casa del portinaio, col posto di portinaio, il disoccupato. Ora voglio dire, questo oggi è ancora possibile. Selvaggio, noi dobbiamo cominciare a mettere strumenti seri, che passano, anche lì favoriscono l'imprenditoria seria, vera e reale, e sbattono fuori dalle città i mafiosi. E poco fa Franca in Bergamo parlava delle difficoltà che sta affrontando la magistratura con questa eccessiva attenzione nei confronti della microcriminalità o comunque legata molto al problema della sicurezza, queste paure che sono state alimentate nelle persone. Guardate che una cosa simile la stiamo vivendo oramai da più di un anno a questa parte anche all'interno delle scuole. All'interno non c'è giorno in cui sui giornali e in televisione non vengono proiettate immagini di cosiddetto fenomeno di bullismo, per cui tutta l'attenzione dentro le scuole oggi si concentra sul contrasto al bullismo. Che cosa dobbiamo fare? C'è una mancanza di sicurezza. Io mando mio figlio a scuola, ecco, che cosa succede? Uscirà vivo da questa scuola? Sarà capace poi di arrivare a casa sano e salvo? Ecco, allora io dico, per carità, non sono fenomeni da sottovalutare, perché quello che si vede sicuramente è preoccupante. Però vorrei anche dire che questi fenomeni non sono di oggi. Fenomeni di bullismo nelle scuole ci sono state, addirittura il bullismo con questa dizione è un fenomeno che ha avuto origine come studio addirittura in Danimarca, e quindi stiamo parlando di circa 16 anni fa, 17 anni fa, e quindi alla fine degli anni 80, inizi degli anni 90, quindi è un fenomeno che sicuramente deve essere studiato, deve essere attenzionato, ma che ancora una volta in determinate realtà come le nostre ha bisogno di un'attenzione in più. Perché è vero che noi non possiamo dire, non è che il bullismo è l'anticamera del comportamento deviante tout court, oppure è l'anticamera del comportamento mafioso, però stiamo attenti, perché il ragazzino bullo dentro la scuola, che però ha in un contesto diverso, al di fuori della scuola, riesce a trovare alcuni riferimenti positivi, sicuramente crescendo ha possibilità di rivedere il proprio comportamento. Qui da noi il vero rischio che si corre, che è un rischio in più, è che il ragazzino che all'interno della scuola esercita azioni di bullismo, fuori trova un riconoscimento in quelli... Come si dice in siciliano, toccare il culo alla cicala. Molte volte può essere fastidioso, anche perché noi ci lamentiamo sempre che Cinisi non c'è, però uno dei motivi per cui Cinisi non c'è è che ogni volta noi sbattiamo in faccia delle cose che sono reali, che sono atti processuali, eccetera, e i cinisari da queste cose si sentono un po' violentati. Io non ho mai detto, come mi hanno fatto dire tante volte, che Cinisi è un paese mafioso. Cinisi è un paese dove ci sono dei mafiosi, ma non che il paese sia mafioso. Personalmente, se devo proprio dare una definizione, dico sempre che Cinisi è un paese di gente assolutamente indifferente alla mafia e all'antimafia. Detto in siciliano, un cinefutte, niente. L'ultimo atto, diciamo così, che ci porta a Cinisi è consumato il 23 febbraio di quest'anno, quindi fresco, con il sequestro di 101 milioni di beni di Gaetano Badalamenti. Quel sequestro di cui abbiamo parlato prima e che finalmente viene completato, diciamo così, dai tempi in cui era stato già disposto per la prima volta da Falcone e da Borsellino, cioè dall'86. Tra questi beni, Come sapete, c'è anche questa cosa, casa famosa di Gaetano Badalamenti, dove è stata vista girarsi qualche volta la moglie Teresa Vitale, che viene un po' a togliere della polvere. Quindi c'è anche questa casa e noi siamo assolutamente decisi, intenzionati come associazione, appena sarà disponibile, a chiederne l'assegnazione per farci una biblioteca con i libri di Peppino e un centro di documentazione giusto, e sarebbe la vittoria più bella che ci potremmo prendere. A questo punto avrei chiuso, però vi leggo quattro righe di un comunicato che ho fatto proprio all'indomani dei sequestri dei beni di Badalamenti come associazione Peppino Impastato. È una parte, dice così: la famiglia mafiosa di Cinisi si è piano piano ricostituita ed è tornata in azione, soprattutto nelle speculazioni edilizie sul territorio, in stretto rapporto con la cosca di Carini. C'è da aggiungere che, malgrado sia in carcere Nicola di Trapani, il figlio di Ciccio di Trapani, l'omicidio di Peppino, è ancora il capo del mandamento mafioso di San Lorenzo. Vito Badalamenti, figlio di Lontano, è iscritto nell'elenco dei 20 criminali più ricercati d'Italia. Per non parlare del trafficante di diamanti Vito Roberto Palazzolo, che se ne sta spaparanzato nelle sue ville sudafricane, coperto dalla complicità di alcuni ministri di Nelson Mandela. Lo Z10, che adesso ha cambiato il nome in quello di Amantea, improvvisa serate danzanti, non sappiamo con quale autorizzazione, mentre alcuni ragazzi di Cinisi, stando a quel che si dice e si sente in giro, si prestano a fare servizi orali negli angoli bui per comprarsi con il ricavato hashish o coca. Con tutto ciò c'è chi sostiene che la mafia a Cinisi è finita e il paese è cambiato. Non è vero niente. Vorrei appunto soffermarmi su questo aspetto. Tra l'altro io, ma questa è un'opinione personale, ritengo che fare anti-racket non significa necessariamente fare antimafia. Perché? E per questo chi ha nel conflitto sociale, nell'emancipazione del lavoro, il proprio punto di riferimento, in chi dovrebbe avercelo quantomeno, deve soffermarsi su questo aspetto. Perché andare a colpire, ostacolare, combattere una forma di accumulazione non significa necessariamente andare a intaccare quel sistema di relazioni sociali e di rapporti, come l'ha definito Umberto questa mattina, che ha in quella forma di accumulazione un suo aspetto. Io vorrei invitare a soffermarci su un aspetto. Dire che chi paga il pizzo è un colluso è un'operazione sottile